c'è Dio. E già qui, insomma, fantasia galoppa, no? Sta roba tipo Dio, i puffi, Godzilla, insomma, sta roba. C'è Dio che ha creato tutte le creature. Si sente, dice il nome stesso, sono creatore. Le ha create tutte uguali. Ma essendo Dio ed essendo buono, decide di assegnare un superpotere ad ogni creatura vivente. Comincia quindi, essendo giustissimo perché Dio, comincia quindi l'estrazione delle creature a cui assegnerà i superpoteri, e i primi estratti sono gli uccelli. Dio domanda dunque agli uccelli. Questo è Dio, quando vedete così vuol dire che è Dio. Uccelli, voi che superpotere desiderate? E gli uccelli rispondono: vogliamo volare. E Dio dice: un po' me lo immaginavo che questa era la prima cosa. Va bene, uccelli, siete sicuri? Sì, sì, vogliamo davvero volare. E Dio dice: d'accordo, gli uccelli da ora in poi potranno volare. Secondi estratti sulla ruota divina sono i pesci. E Dio chiede ai pesci: voi pesci che cosa volete? E i pesci rispondono: vogliamo volare. E Dio dice: ragazzi, non mi fate incazzare subito però. Cioè, se è cominciato ora, gli uccelli vogliono volare, anche voi no. Cioè, trovate un'altra cosa. E i pesci rispondono: ma noi vogliamo davvero volare parecchio. E Dio dice: ragazzi, davvero no però. Dai, trovate. Va bene, allora ci si pensa. No. Dalle retrovie dei pesci comincia a farsi largo sta voce di uno che dice: ragazzi, secondo me ci ho avuto una bella idea. Se proprio Dio non vuole che si voli anche noi, si potrebbe chiedere di respirare sott'acqua. Sembra bella, no? Altri pesci dicono: però io preferivo volare. Però fatto sta che Dio si è opposto a questa cosa, quindi i pesci, compatti più o meno, chiedono a Dio di respirare sott'acqua. E Dio dice: pesci, siete sicuri di voler respirare sott'acqua? E i pesci rispondono: sì, cioè ci piaceva anche volare, però va bene anche respirare sott'acqua. E Dio dice: va bene, da ora in poi i pesci potranno respirare sott'acqua. E i pesci rispondono: cazzo, Dio, intendevamo dire respirare anche sott'acqua. E Dio dice: ragazzi, bisogna essere parecchio chiari quando si parla con Dio, quindi non vi lamentate. E i pesci non si lamentano, poverini, anche perché non ce la fanno, cercano mestamente di trovare uno specchio d'acqua, rotolano e vanno lì. E quella, fra l'altro, non so se lo sapete, quella è l'occasione in cui è stata inventata la bestemmia, la lamentata dei pesci. Magari questa è una notizia che non vi era arrivata. L'estrazione va avanti, le creature vengono estratte ancora. Io credo ci siano stati altri fraintendimenti fra gli esseri viventi e Dio, perché io, per esempio, non credo che le lucciole volessero far luce dal culo. Cioè, non penso fosse una cosa. Cioè, quello è un altro di quei momenti in cui Dio e le bestie non si sono capite veramente. Però, sai, uno si ritrova proprio il culo che lampeggia, dice: vabbè, ha capito così, ragazzi, che si deve fare ormai, andiamo. Oppure la cozza, per esempio, la cozza, siamo sicuri che si è capita? Perché io non credo, a meno che non ci sia stata la cozza che ha detto: noi si può stare ferme, ferme, ferme, attaccate agli scogli e filtrare tutta la merda del mare, noi si sceglie questo. Però non credo, insomma, che sia andata in questa maniera. Grazie. Un applauso alle cozze, però, vabbè. E insomma, l'estrazione prosegue, va avanti, fino a che, ovviamente, non sto nemmeno a dirvelo chi è l'ultimo estratto: l'essere umano. E Dio dice agli esseri umani: esseri umani, allora, se ne è fatti tanti, con alcuni non ci siamo capiti tanto bene, anche l'ornitorinco, insomma, non ho capito bene cosa voleva, però ho fatto un po' un mix, è venuto questa pappa schifosa. Però ragazzi, voi che siete gli ultimi, per piacere, scegliete bene e siate chiarissimi. Esseri umani, voi cosa volete? E noi abbiamo risposto: i pollici opponibili. E Dio ha detto: cosa volete voi, scusate? E noi: i pollici opponibili. Cioè, noi vogliamo che i pollici delle nostre mani, quei dei piedi non importa, mani, ma basta le mani, si oppongano a quegli altri diti, guarda, di modo che noi dopo si può fare così, Oi, oi, senti come si sta bene. Guarda, guarda il lavoro. E chiaramente Dio ha detto, ragazzi, ragazzi, è vero, avevo detto siate specifici. Mi sembra si stia un po' esagerando. Vi posso anche chiedere perché voi volete questa cosa? Perché ci rilassa particolarmente fare così. Senti come si sta bene, senti. Oi, oi. E Dio dice, vabbè, contenti voi. E da lì in poi l'uomo ha avuto il pollice opponibile. Ora, noi sappiamo che questa scelta alla fine si è rivelata abbastanza vincente, no? Perché pollice opponibile, afferri le cosine, uguale, domini la terra. A parte che secondo me non ho mai capito, cioè secondo me le cose si afferrano anche senza pollici, eh? Cioè non è... Io credo... no, c'è poco da ridere. Guarda, cioè è proprio facile. Io credo che lì sia stata un po' una mezza... Cioè, secondo me sono quegli altri animali che hanno capito che ci si era tirato un po' un culo da soli con questa storia di... Perché avere pollice opponibile, afferrare le cose, significa essere gli unici che lavorano. Capito? E secondo me le scimmie hanno detto, oh, oh mamma, guarda, noi senza pollice non si può fare nulla. Che sfortuna, vabbè. Allora fate voi, via. Noi si resta qui, noi, se non vi dispiace, si mangia e si tromba e basta. E voi intanto vi fate un culo così. Perché chiaramente fare così senza pollici diventa... Questa la spiego perché è un po' più complicata da capire. E quindi, diciamo, le bestie hanno preso un po' la palla e balzo e noi con questi pollici opponibili. Ecco, il fatto che io mi domando... Cioè, noi, quando si è chiesto pollici opponibili, si sapeva questa cosa della dominazione della terra grazie all'afferramento? Oppure si è chiesto pollici opponibili davvero perché ci rilassava fare così? Perché, per esempio, guardando la manifestazione di Salvini a Bologna, secondo me la seconda, cioè noi si è chiesto, per rilassarsi si è chiesto di avere questo pollicino, perché porini, siamo poverini, no? Cioè non c'è, fra l'altro, immaginatevi come si deve sentire l'orso quando vede questa roba, cioè l'orso che lui ha chiesto di essere grosso, peloso, l'artigli, la bocca in questa maniera, e noi con pollice opponibile, però non si può pigliare il fucile, scusa orso, per pazienza, t'ha perso, e l'orso. Ora però, il fatto di avere questi pollicini opponibili, cosa ha portato nella storia dell'uomo? Qui devo farvi una rapidissima carrellata perché so di avere poco tempo a disposizione. Andiamo a vedere. Allora, quando noi si è chiesto pollici opponibili, più o meno si era allo stadio di Homo sapiens, Homo erectus, non lo so. Homo erectus, Homo sapiens, sapiens, Homo sapiens, sapiens, sapiens, sapiens, egiziani. Non so se lo sapete, ma l'evoluzione... Sì, sì, è così, non c'è un cazzo da ridere. L'evoluzione della storia è andata così. Cioè, cosa sia passato da essere mezze scimmie a essere tutti truccati di profilo in quella maniera, non lo sa nessuno. Se andate nei libri di storia, ok, fine delle Homo sapiens, egiziani. Egiziano, bravo, egiziano, ci verrebbe da dire che grazie a pollice opponibile hai fatto le piramidi, no? Quindi, bravo. Però anche lì, pensiamoci un attimo di più, perché... Con queste piramidi, mio uomo, cosa, cioè, beh, sono belle da vedere, ma cosa sono? Egiziano, dimmi, cosa sono? Sono piramidi, sì, vabbè, avrete notato che so fare una voce sola, quindi pesci, uccelli, egiziani, tutto uguale, chi non parla con la voce mia, parla così, perché è solo questo, scusate. E l'egiziano dice, sono piramidi, sono parecchio belle, sì, sì. Ho capito, ma cosa sono? Sono tombe. Ah, grosse a quella maniera. Sì, ci piacciono grosse a noi. Ma quindi cioè, ce ne sarà seppelliti dentro parecchi, no? Egiziani. Abbastanza. No, egiziani, no. Abbastanza anche. Quanti ce n'è? Tre. Come tre? Ragazzi, come tre? Ce n'è tre. Poi la cosa strana, sai, incredibile, per costruirle ce n'è morti 150.000, non si sa dove seppellirli, proprio non sa. E poi dopo, proseguendo a parlare con l'egiziano, poi è peggio ancora, perché dopo ti spiega che quei tre sono lì dentro perché erano imparentati con gatti e quell'altri no, quindi insomma l'egiziano è proprio parecchio confuso. Quindi il caso qui non si risolve il dilemma, è il caso di spostarsi in un'altra area geografica. Ah, perché non so se sapevate, ma la storia a quei tempi si svolgeva per aree geografiche. Quindi egiziani, basta egiziani, greci, tutti in Grecia. Funzionava così, quindi in Egitto non c'era più nulla, da lì in poi andavano in Grecia. se andavi in Egitto c'era rimasto niente, grigio, tipo le interferenze in televisione, cioè, e erano tutti in Grecia, giustamente. I greci, grazie al pollice opponibile, i greci hanno inventato svariate cose belle, tipo il tempio greco, tipo il teatro, Dio li fulmini oggi per questa invenzione, tipo i greci hanno inventato, sono stati i primi a inventare il pollice opponibile in culo, perché sì, sono stati i primi a capire che ci si poteva divertire anche a livello anale, diciamo, e quindi hanno cominciato, subito dopo hanno inventato la filosofia, secondo me per fare un po' poggio e buca, dice vabbè ragazzi, si è inventato questa cosa, inventiamo qualcosa da un po', filosofia, intanto però sotto i greci. Quindi anche qui a me mi rimane un po' il dubbio, chiaramente la storia prosegue, quindi basta Grecia, basta grigio in Grecia, via tutti a Roma, eccoci qui arrivati. Oh, i romani uso molto disinvolto di pollice opponibile, intanto a livello chiaramente di imperatore romano, no? E che senza pollice questo si fa male, eh? E torna comodo anche oggi su Facebook, perché dici così, pensa te se per dire mi piace devi fare così, tipo si capiva male, no? Invece così è chiaro, così mi piace, capi? Invece pollici, quindi molti poi, ogni tanto anche i romani ovviamente, anche loro insomma, cioè, non è che anche loro si divertivano, visto sdraiati, l'uva, lo sapete, siete romani, sapete bene come ci si diverte a Roma. Però cosa succede ai romani? Ai romani succede una cosa che davvero non se la può mai aspettare nessuno che succeda, e cioè gli succede Gesù Cristo. Mentre loro erano lì tranquilli, facevano tutte le loro cose, arriva imperioso, come solo lui sa essere, Gesù Cristo, che è Dio, secondo alcuni. Questo Gesù Cristo chiaramente scombina un po' le carte in tavola. Ora io forse è banale che un toscano sia ateo, però il fatto sta come non è, è proprio così, nonostante il cognome, mi chiamo Goretti, perché insomma. Però sì, non sono molto, ultimamente sono abbastanza tranquillo al riguardo, cioè mi scoccia solo un po' che quando parlo con un credente il processo debba essere il contrario, cioè debba essere io a cercare di dimostrare che Dio non c'è. Ora, onestamente, tu sei te che tu mi devi convincere che c'è una cosa che non si vede, non si sente, non ci si parla, come mai devo essere, cioè come se io ora stasera vi dicessi, allora ragazzi, grazie a tutti di essere qui, da parte mia e da parte di questo fagiano di 200 kg che io ho qui accanto, come voi non potete vedere perché non si vede il fagiano. Il fagiano però è un buon fagiano, ragazzi, è un fagiano che vi vuole parecchio bene a tutti. Ascolta il fagiano, senti il fagiano dentro di te, il fagiano nell'alto dei cieli, insomma, eccetera eccetera eccetera, come prosegue la storia lo sappiamo. Però ecco, la storia fra i romani e Gesù Cristo è una storia abbastanza complessa che non starò qui a raccontarvi per non tediarvi oltre. Però ecco, Gesù Cristo ci insegna che con la razza umana, intelligente o stupida che sia, c'è poco da fare il bischero, perché è un attimo, se no, che il pollice opponibile da così diventa molto floscio e finisce un po' in questa maniera, ecco.